Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alle puntate estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Da luglio a metà settembre vi facciamo riascoltare alcune tra le storie più belle e significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Storie di giovani espatriati al lavoro ai quattro angoli del pianeta. Storie di under 40 che ce l'hanno fatta e hanno un messaggio preciso da lanciare all'Italia, paese che hanno lasciato in cerca di migliori opportunità. Tra poco ascolterete qual è questo messaggio. Per chiudere il mese di luglio vi proponiamo due storie ambientate quasi alla stessa longitudine, seppure in contesti estremamente diversi. La prima sul difficile fronte afghano, ma non sarà tanto il contesto a interessarci stavolta quanto il tema del ritorno. Si può rientrare nella penisola dopo anni e trovare gli stessi identici sistemi di selezione medievali delle risorse umane? La seconda storia, con base a Hong Kong, ci porterà invece nel cuore della globalizzazione. Il tema sarà vivere e lavorare da professionisti globali. Per cominciare però, rotta verso l'Afghanistan. Nome: Pietro. Cognome: Ienna. Età: 34. Città di origine: Palermo. Studi: relazioni internazionali e poi studi europei con master. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? Belgio. Perché? Per approfondire le tematiche della mia corso di laurea. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono responsabile comunicazione e media alla delegazione dell'Unione Europea in Afghanistan. Dove? A Kabul. Tornerai? È improbabile, però mai dire mai. La dura realtà da accettare è che in questo paese non si rientra neanche accontentandosi, perché il lavoro è considerato troppo spesso come merce di scambio ed è quasi sempre considerato un favore che viene fatto alla persona assunta. Con questa affermazione di impatto iniziamo il racconto della tua storia, Pietro. In Italia, da quanto dici, il lavoro è una merce di scambio, non un sano incontro tra domanda e offerta, tra azienda e professionista con formazione e know-how. Prima ancora di riformare il mercato del lavoro col Jobs Act, non sarebbe il caso di resettare questa mentalità feudale europeizzandola? Assolutamente sì. In linea generale direi che la mentalità italiana porta a una concezione del lavoro assolutamente, come dicevo prima, come merce di scambio, tesa come do-to-des, purtroppo non come scelta delle migliori competenze in circolazione. Ma in due parole due, Pietro, come funziona nel mondo, diciamo, evoluto l'incontro tra domanda e offerta, anche con la crisi? È un processo efficiente. Da un lato c'è un professionista che offre competenze chiare ben definite, e dall'altro invece c'è un'intenzione di assorbire, di investire quelle competenze in un piano di lungo termine da parte dell'azienda. Quindi in questo caso, anche in termini di crisi, nel lungo periodo questo incontro tra domanda e offerta si rivela il più, in termini di guadagno, è sicuramente quello migliore, insomma. Rivolgiamo il nastro della tua storia, partiamo dall'iscrizione alla Facoltà di Relazioni e Politiche Internazionali, Università di Palermo. Quale passione ti porta verso una carriera così improntata all'estero? Ma sicuramente la passione per le lingue e la voglia di vivere esperienze all'estero, insomma fuori dall'Italia. Queste mie passioni si sono tradotte ben presto in una mia inclinazione a seguire appunto una carriera di vocazione internazionale. Appartenevo a quella generazione Erasmus che a 20 anni nel 2000 è andata a vivere, studiare e guadagnare il primo stipendio fuori dall'Italia, ricordi con orgoglio. Nel tuo caso l'hai fatto a Ghent, in Belgio, e qui basta raccontare un solo episodio, nella fattispecie una mezza figuraccia di cui sei stato protagonista con un giovane professore, per spiegare meglio di mille volumi perché le nostre università affogano in una trappola gerontocratico-baronale. Cos'è successo? Successo che, entrando al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ghent, cercavo appunto il professore che doveva approvare il mio piano di studi. Dopo aver chiesto a un ragazzo in quel dipartimento dove potessi trovare il professore in questione, mi sentii rispondere con mia grossa sorpresa: quel professore sono io, cosa posso fare per te? Il professore in questione è un ragazzo di 28 anni che aveva una disponibilità e un approccio informale che mi mai visti prima. Assolutamente, senza parole. Fu lì che realizzai che quello è il mondo universitario ideale che volevo sicuramente vivere. Dopo quei 9 mesi in marchio Erasmus faceva ormai parte di me, ricordi? Ti laurei nel 2003, ti chiedo subito un voto secco all'università italiana. Ma io direi 6, come media tra un 8 per la qualità delle competenze teoriche che comunque l'università italiana permette di acquisire, e un 4 dovuto alla scarsa propensione internazionale. Ti dedichi agli studi europei, cominci con un master all'Università di Lovanio in Belgio, cui fa seguito uno ancora più prestigioso al Collegio d'Europa di Natolin in Polonia. Cosa ha rappresentato per te questa esperienza in termini formativi, ma soprattutto di apertura totale alla realtà europea? Sono riuscito a vivere e respirare l'Europa al quotidiano. Vieni presente che insomma con me c'erano studenti di 45 nazionalità diverse, sicuramente una peculiarità che è poco, si può riprodurre molto, molto difficilmente in un contesto universitario nazionale. Ecco. Nel 2005 con laurea e ben due master in tasca sbarchi a Bruxelles. L'Italia, ti chiedo, non l'hai considerata proprio all'epoca come possibile meta di lavoro? No, non l'ho considerata perché insomma, focalizzare la mia attenzione su quello che ritenevo essere il mio sbocco naturale e quindi perseguire questa carriera internazionale in ambito appunto istituzioni europee. Come si viene assunti a Bruxelles? Dipende da dove si vuole essere assunti. Diciamo, esiste, oltre alle istituzioni europee, c'è un settore privato, c'è un indotto molto ampio che gravita intorno appunto alle istituzioni, quindi ONG, studi legali, associazioni di categoria, ma anche società di consulenza, e lì le offerte di lavoro sono pubblicate su siti specializzati, cosa che appunto in Italia non avviene. Tutto in modo chiaro e trasparente? Sì, in ogni annuncio c'è una chiara descrizione delle mansioni, le condizioni contrattuali e spesso, tra l'altro, anche la retribuzione offerta viene dichiarata e viene appunto resa pubblica. A Bruxelles resti 6 anni, un rapidissimo riassunto di quanti lavori hai cambiato? Dal 2006 ho fatto 2 stage, uno al Parlamento Europeo e poi alla Fondazione del Collegio d'Europa, poi nel 2007 cominciai a lavorare per il gruppo The Economist, dove mi occupavo di eventi e marketing, tra il 2008 e il 2011 poi finalmente riuscì a fare l'esperienza alla Commissione Europea presso la Direzione Generale Allargamento. Adesso viene la parte interessante. Nel gennaio 2012 lasci Bruxelles, parti come volontario per l'ONU nella Repubblica Democratica del Congo e dopo un anno opti, dopo numerose riflessioni, per rientrare in Italia. Perché lo hai fatto e con quali speranze? Diciamo che le ragioni di questa scelta erano essenzialmente di natura personale, legata appunto alla mia sfera affettiva e familiare, insomma. Ero cosciente chiaramente delle enormi difficoltà che avrei affrontato, ma insomma speravo che le mie esperienze professionali accumulate negli anni mi permettessero di trovare comunque un percorso professionale sicuramente meno internazionale, però speravo comunque di restare coerente al mio profilo. Il primo colloquio di lavoro con una startup bolognese si rivela una delusione, nonostante fosse per l'appunto una startup, ti rifiutano persino un colloquio telefonico via Skype, non potendo tu essere fisicamente presente. In ogni caso decidi di rientrare su Bologna, cominci a inviare curricula a tutti, con quali risultati? Deludenti a tratti grottesche, insomma, su centinaia di CV inviati, ai frequenti complimenti che comunque ricevevo in maniera probabilmente, insomma, in maniera molto superficiale, insomma, mi dicevano anche, altre risposte si aggiungevano, dicendo: ma lei ha pensato mai di mandare il suo curriculum all'estero? Era paradossale, ma quale paese hai trovato più in generale al tuo rientro? Un paese che si culla sugli allori dei vecchi successi, insomma, del passato, fa fatica molto a liberare le sue energie migliori per inventare un nuovo futuro fatto di nuovi successi. Questo purtroppo è quello che ho visto. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma mi dicevo che vantare un CV internazionale avrebbe potuto rappresentare un punto di forza, rifletti a posteriori. Ma la goccia che fa traboccare il vaso ti dimostra che nella Lilliput italiana queste basilari regole vengono disattese. Cosa avviene nello specifico in un ente regionale che sembrava ormai prossimo ad assumerti? Nell'ottobre del 2013 ho arrivato alla fase finale di una selezione per una posizione di project management insieme ad un altro candidato, su un progetto appunto gestito da un ente regionale, e aspettavo la risposta finale, insomma, da lì a breve, quando invece, insomma, dovessi aspettare altri 2 mesi, e alla fine mi venne comunicato che era stato selezionato una terza persona estranea alla selezione, che però già lavorava presso quell'ente, insomma, già da diversi anni. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Decisi di accantonare definitivamente il sogno di rientrare in Italia e ripartire nuovamente, stavolta in Afghanistan, presso la delegazione dell'Unione Europea. Era l'aprile 2014. In una lettera piena d'amarezza c'è scritto: con l'Italia nel cuore cercherò di rappresentare al meglio il mio paese all'interno delle istituzioni europee. Per mesi avevamo infatti seguito a distanza la tua storia, Pietro, sperando che tu potessi farcela arrestare. Pietro, ti chiedo, nell'impermeabilità che l'Italia ha mostrato verso il tuo profilo si riflette il fallimento di decenni di utilizzo di importanti risorse europee, quali fondi strutturali? Probabilmente sì, dico, la miopia di certe strutture nel non valorizzare le risorse a disposizione probabilmente si riflette in questo, nel rifiuto inconscio di mettere in campo strategie di lungo termine invece di assistere a quello che, insomma, che io ritengo un tirare a campare, insomma, un vivere alla giornata, un improvvisarsi in questo settore strategico per l'Italia. In 2 parole, di cosa ti occupi ora? Mi occupo di visibilità dei progetti europei in Afghanistan. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Una proposta concreta, appunto, basandomi sull'esperienza di Bruxelles, è quello di rendere tutte le offerte di lavoro veramente pubbliche. Questo è anche un modo per poter monitorare come avviene il processo di selezione e avere magari una maggiore trasparenza nel reclutamento, appunto. Ci raggiunge ora in linea Fabrizio Spada, direttore della rappresentanza della Commissione Europea a Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Difficilmente tornerò in Italia, ma posso dire di averci provato. Conclude così Pietro la lettera inviata a giovanitalenti@radio24.it. Fabrizio, tu a Bruxelles hai speso oltre 15 anni prima di tornare a Milano come direttore della rappresentanza. Cosa ci insegna, secondo te, la storia di Pietro? Ci insegna sicuramente che l'Italia è un paese ancora dove conta di più il conoscere le persone piuttosto che il saper fare le cose. Purtroppo questo paese è in una situazione di questo tipo perché è molto fondato sulle relazioni e sulla famiglia, quindi sulle conoscenze. Quindi se vuole, diciamo, raggiungere uno standing europeo deve cambiare molto. Condividiamo. La storia di Pietro apre uno spaccato importante sulla nostra comunità all'interno delle istituzioni europee. Italiani dal profilo internazionale, ma soprattutto europeo. Chi sono? Soprattutto quale contributo potrebbero fornire, secondo te, se ben reinseriti e valorizzati all'interno del sistema Italia? Potrebbero fornire un grandissimo contributo, perché hanno una visione internazionale delle cose, perché conoscono le lingue. Il problema è che l'Italia è abbastanza impermeabile agli inserimenti esterni nelle carriere. Cioè, se una persona inizia una carriera in Italia, difficilmente poi cambiare settore, azienda o addirittura ente pubblico, come invece è normale negli Stati Uniti, per esempio. La famosa mobilità lavorativa. Però, da un punto di vista tecnico, non è assurdo che un profilo come quello di Pietro, che avrebbe potuto essere perfetto per un lavoro a stretto contatto con i fondi strutturali in un paese che, ricordiamolo, per decenni non ha fatto altro che sprecarli, venga respinto non solo da enti privati ma anche pubblici? Sì, è assolutamente assurdo. No, innanzitutto le regole di entrata degli enti pubblici oggi in Italia sono molto opache, sono fondate su concorsi, ma questi concorsi a volte non vengono nemmeno resi pubblici. E in secondo luogo io ho l'impressione che le persone che gestiscono gli enti pubblici a volte preferiscano gestire direttamente le risorse in maniera opaca piuttosto che farle gestire in maniera efficiente a persone preparate. Ora Strada in diretta, noi torniamo subito dopo con la seconda storia della puntata. Giovani talenti. Riprendiamo l'ascolto della puntata di Giovani Talenti, ci trasferiamo adesso, come annunciato, a Hong Kong per parlare di opportunità di lavoro ad alto livello in Estremo Oriente. Nome: Carolina. Cognome: Di Vonzo. Età: 31 anni. Città di origine: Torino. Studi: giurisprudenza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: nel 2012. Per andare dove? Adesso Hong Kong. Perché? Avevo bisogno di qualcosa di veramente nuovo. Quale lavoro svolgi attualmente? Mi occupo di proprietà intellettuale. Dove? A Hong Kong. Tornerai? In Italia credo di sì, credo. Dirigo il Dipartimento Proprietà Intellettuale per una grande azienda di Hong Kong. Ho un piccolo team e penso alla strategia mentre loro eseguono. Mi diverto un sacco. Non credo che questo sarebbe stato possibile in Italia, purtroppo. Tornerei in Italia anche subito, ma se non mi faccio un po' d'esperienza, quando torno mi mettono a fare le fotocopie, c'è scritto. Carolina, partiamo con una domanda diretta. C'è sempre un po' la paura di fondo di regredire professionalmente quando si torna in Italia dopo un'esperienza forte all'estero? Sì. Spero che l'esempio delle fotocopie sia un po' estremo, ma comunque credo che non potrei fare il lavoro che sto facendo adesso in Italia in questo momento alla mia età. Devo anche dire che è un problema anche strutturale, perché in Italia forse non ci sono aziende che hanno dei dipartimenti dedicati solo alla proprietà intellettuale. E ci dovrebbero essere, perché è abbastanza di nicchia. Ci dovrebbero essere, perché è un mercato di nicchia, ma importante. La tua storia in breve: dopo aver concluso il liceo in Scozia fai una doppia laurea in giurisprudenza tra Torino e Parigi. Allora, perché innanzitutto scegli gli studi giuridici? È stato un po' un caso, se posso dirlo. Avevo un cugino magistrato che mi portava in tribunale quando avevo 14-15 anni, poi nel tempo ho lasciato perdere la magistratura, sono diventato avvocato. Domanda secca: meglio studiare in Francia o in Italia? Quale dei due sistemi formativi ti ha dato maggiori feedback positivi? Qui sono molto contenta di poter dire meglio l'Italia. Oh. Anche quando sono stata a Montreal, meglio l'Italia, anche se sarebbe ovviamente un sistema un po' da svecchiare. Svecchiare è il termine esatto. Va pure precisato che il tuo periodo formativo è stato segnato esperienza all'estero, lo hai detto tu, un semestre a Montreal, un mese a Ginevra, alla WIPO, l'agenzia ONU specializzata in proprietà intellettuale, e poi il viaggio post laurea a Shanghai. Infine il ritorno a Torino, l'inizio poi del lavoro come praticante in uno studio legale, ma mi sentivo chiusa in gabbia, ricordi perché? Adesso posso dire che il posto in cui stavo in realtà era un posto stupendo come palestra per giovani avvocati. Ma il problema mio era che Io ero appena iniziato a lavorare a Torino, volevo fare proprietà intellettuale, volevo girare ancora e quindi non avevo voglia. E poi era il 2008, avevo paura che non sarei riuscita più a uscirne perché era proprio il periodo della crisi finanziaria. Da Torino a Milano, nel tuo caso va precisato e a differenza di altre storie che raccontiamo, l'Italia non è stata così avara di opportunità, l'hai già fatto capire. Come ti sei trovata nei famosi studi internazionali del capoluogo lombardo, a parte le 15 ore di lavoro giornaliere e a parte la sensazione di essere, lo dici tu stessa, Carolina Rotellina? Cosa vuol dire? Il problema era forse più legato a me stessa, non avevo così tanta voglia di essere bloccata in studio legale. Inizialmente non facevo proprietà intellettuale, quindi anche quello, e negli studi internazionali mi ero ritrovata un po' per caso, un po' per fortuna, e mi sembrava di fare sempre la stessa cosa, di non progredire molto. A Milano stavo languendo in uno studio, mi tornò in mente la Cina, così dopo l'esame di Stato riprendi il volo per l'Estremo Oriente. Come ce l'hai fatta a tornare a Est? Io la Cina ce l'avevo già in testa da tempo, ero curiosa di vedere se era proprio vero quello che mi raccontavano, quello che avevo visto nel mio viaggetto. Ho pensato di fare un master in proprietà intellettuale, quindi la Cina è un posto migliore per studiare la proprietà intellettuale. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Finisco a Hong Kong a lavorare in studio la mattina e a fare il master nel pomeriggio. Alla fine mi danno anche il premio come miglior studente dell'anno. Dunque, eccomi, ho sbagliato mira e non sono a Shanghai, ma sono comunque in Asia. E se non me la gioco adesso, ripiombo in uno studio legale a Milano. Questo mai rifletti, aggiungendo, lavorativamente non ce la faccio proprio. Perché? Ma inconsciamente, al momento, in quel momento lì, mi sembrava di essere un po' annoiata e di non imparare molto. Ora che sono fuori mi rendo conto che ero annoiatissima ed ero arrivata in un punto completamente stagno in cui non stavo imparando nulla. Ma c'è un problema... un problema di progressione e carriera in Italia? Forse negli studi legali no, perché è abbastanza automatico come si passa da un grado all'altro, però il lavoro è un po' più noioso, nel senso che si trovano meno responsabili, cioè vengono date meno responsabilità. Hong Kong ti premia spostandoti dall'ambito legale a quello della proprietà intellettuale. Come avviene il passaggio, che corrisponde anche con un cambio di azienda? Per precisare, non è che sia un cambio di ambito, nel senso che la proprietà intellettuale fa parte dell'ambito legale e io già mi occupavo di proprietà intellettuale quando ero in studio legale, però ho cambiato, sono passata da studio legale azienda, quindi cambia completamente il contesto. Sei nel cuore del business e non sei al servizio visto dall'esterno, diciamo, della situazione, che non sempre ti può spiegare tutto il contesto, the big picture, quindi uno si ritrova a fare un servizio spot senza magari vedere tutto. Di cosa ti occupi ora a soli 31 anni, soli per gli standard italiani? Dirigo il dipartimento che si prende cura per Asia Pacific, Europa, Middle East, America Latina, della proprietà intellettuale di questo grosso gruppo di Hong Kong, e ci preoccupiamo che quando noi mettiamo in mercato dei prodotti, questi non violino i diritti degli altri e che gli altri non violino i diritti nostri. Quale paese vedi più attrattivo nell'attrazione di talenti, o meglio nella competizione per attrarre talenti oggi, l'Italia o la Cina? È la Cina. Perché? Mi piace dirlo. Perché? Perché dall'Italia tutti se ne vanno, perché i salari non sono altrettanto alti, le responsabilità non sono altrettanto alti, la libertà di movimento non è la stessa. E allora la mia domanda di rito, che faccio a tutti ogni settimana: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Purtroppo, o per fortuna, non lo so, bisogna cambiare la mentalità, e mi stupisce che ci sia della gente della mia generazione che ancora abbia la mentalità di un tempo, pensando in termini di posto fisso, nel senso in cui nessuno ti può mandare via anche se non stai facendo nulla. Io non capisco, io ho sempre avuto un contratto a tempo indeterminato qua, anche prima in realtà, ma non capisco come la gente possa pensare di avere un tempo indeterminato senza dare altrettanto come garanzie di qualità lavorative. Ci raggiunge ora in linea Emanuela Verrecchia, avvocatessa specializzata in proprietà intellettuale a Shanghai, nonché animatrice di un seguitissimo blog dedicato agli italiani in Cina. Buon pomeriggio, Emanuela. Ciao Sergio. Allora Emanuela, ci fa molto piacere ritrovarti, anche perché sei un po' il nostro punto di riferimento per gli italiani in Cina, e sottolineo Cina perché resta forte lo iato tra la madre patria e l'ex colonia britannica, due mondi diversi anche lavorativamente. Anche tu, come Carolina, ti occupi di proprietà intellettuale, hai fondato il gruppo LinkedIn Italiani in Cina, lavori al blog Cina di Frontiera. Qualche anno fa ne parlammo con te proprio a Giovani Talenti, la Cina andava di moda nelle partenze dei giovani professionisti italiani, è ancora così? Sicuramente la Cina ancora di moda, forse ancora più di prima. Il problema è che è diventato un mercato molto più difficile per accedervi, perché da un punto di vista burocratico ci sono delle forti limitazioni con i visti, e essere detto in modo molto chiaro, anche per non creare delle illusioni nei giovani laureati, che per venire in Cina occorre aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel paese di provenienza, in quel settore specifico per cui tu fai domanda di lavoro in Cina. Il secondo aspetto che ha ristretto il collo della bottiglia sul mercato del lavoro cinese è che con la crisi ci sono molte meno assunzioni rispetto a prima, e parlavo poi qualche tempo fa con un'amica che fa recruitment. Si cerca il 98% il giovane cinese. C'è stato uno shift, insomma, le cose sono cambiate, tutto cambia molto rapidamente ormai. Laureati tra i 25 e i 45 anni che inseguono una fortuna che in Italia non c'è più. Questo è il profilo dell'emigrante tipo che accomuna gli oltre 6.700 residenti italiani in Cina e altri 3.000 migranti sommersi. Concentrati nelle aree tra Hong Kong e Pechino, passano per le aree costiere di Shanghai e Canton. La popolazione italiana residente nel 2013 era più che triplicata rispetto al 2006. Così raccontava lo scorso anno il progetto Amico, che ha indagato appunto la nostra immigrazione in Estremo Oriente. Combacia questa ricerca col tuo personale identikit dei connazionali in Cina. Ma la mia impressione è che ci sia sì molta più gente di prima, però gente di passaggio. C'è un grande andare e vieni, c'è difficoltà a mantenere la permanenza e la continuità in Cina perché manca il lavoro. Concentrandoci invece sul settore legale e della proprietà intellettuale, Emanuela, la Cina è una terra delle opportunità? Secondo me non lo è mai stata specificamente nel settore legale, perché la professione legale è una professione molto legata al territorio. Oltretutto noi legali stranieri in Cina non possiamo neanche ambire a diventare avvocati in Cina, perché occorre essere cittadini cinesi. Quello che fa un avvocato in Cina è non fare l'avvocato. Siano fondamentalmente due ruoli, uno di rainmaker e un altro di diciamo creare, facendo training e anche dando un nostro apporto nella comunicazione, dare un qualcosa in più a livello di supervisione e di creatività. Emanuela, due tipi di consigli che possono essere utili a chi ci ascolta e che magari sta pensando alla Cina come terra di approdo. Il primo specifico per un giovane neolaureato che in Italia sopravvive e guarda opportunità lontane in un mondo globale. Allora, quanto è facile o difficile approdare in Cina per chi ha appena concluso l'università? Io credo che oggi sia molto difficile, e il consiglio che io do a un giovane laureato che vuole venire in Cina è l'umiltà e venire in Cina per scelta e non per ripiego. Più in generale, vale la pena oggi fare un'esperienza di studio o ancora meglio lavoro in Cina? Dipende da quello che tu cerchi, perché per me la priorità è sempre stata imparare dal mio lavoro, imparare anche dalla vita. Come diceva Carolina, vivendo in Asia ti si apre anche un mondo. Io stessa, conoscendo la Cina, poi ho conosciuto anche altri paesi asiatici. Se questa è la tua priorità, allora vieni. Diversamente non ti aspettare oggi in Cina ponti d'oro, perché te dell'oro, incenso e benefit sono finiti per lo straniero. In un flash, Emanuela, quali storie interessanti possiamo leggere questa settimana sul tuo blog Cina di Frontiera? Questa settimana andiamo a Wuxi a intervistare il nuovo direttore generale di Thermovat. È un ragazzo di 43 anni che è presente in Cina da 10, e un ingegnere elettronico. Grazie Emanuela Verrecchia, e continueremo ovviamente a leggerti sul blog. E domanda di rito invece per Carolina Di Vonzo: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Sembrerò mia nonna probabilmente, ma il consiglio è di non aver paura. Secondo me non bisogna aver paura né di partire né di non riuscire a tornare. Penso che, a prescindere dai problemi attuali dell'Italia al momento, in ogni caso fare un'esperienza all'estero sia vitale. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective. Ricordatevi che dedichiamo ogni mese uno spazio ben preciso alle vostre lettere on air. Scriveteci nel corso di questa estate le vostre storie in Italia o all'estero, le vostre riflessioni, la vostra voglia di vedere un cambiamento reale ed effettivo nel bel paese. Scriveteci soprattutto cosa ne pensate sulla differenza di opportunità per gli under 40 tra Italia ed estero. Oppure, se vivete all'estero, cosa intendete fare per il vostro o nostro paese nell'ottica di un rientro o di una riconnessione. Leggeremo le vostre lettere nel corso delle prime puntate autunnali. La casella email dove inviarle è sempre giovanitalenti@radio24.it.